Buonasera ragazzi, qui Danilo, c'è qualcuno? Io voglio il sorpasso pian piano. Ora è viaggiato. In quale dici, scusami, non ho capito. Buio, quello del salone. Hola. Attenzione 10, c'è qualcuno? 5-10, brecco. Hola. Avanti, chi è? Chi è? Avanti. Io per dove voi ora? A Salò e Mbarrado. Attenzione, canalifici. Facci attenzione voi. Ciao, Berito. Metti, faccio un 10. Ciao, ciao. Siamo su 10. No, era al telefono, Antonio. Stavo rispondendo al telefono. E allora, come mai così presto oggi? È perché sto aspettando che chiami la signora. Uccidi! No, andiamo a pigliare la mia figliura. Che ci sono i ragazzi che sono da soli e lei ha con l'occhio di scuola. Ah, ho capito, quindi devi uscire dopo. No, uscire non devo uscire, devo uscire e andarla a prendere. Pigliare. Bene, sta uscendo questo, sì. Invece bene, non male, dai. Sì, non lo tengo a tutto volume, perché sennò me ne viene lì da dire già la giovanità da amare. Mi do cata a congiuretta. Ma non è possibile che non c'è il televisore adesso hanno un'altra frequenza che è lontana da quella CB, ma molto lontana. E di là è da, che non ha compreso ancora nulla, tutti verranno dietro, tutti ci hanno già mandato un pezzo, manco che è da ancora, ma cosa vuoi che per un giambiano i ratri? Guarda, non te la pratica, è il miscelatore che praticamente, come quello del mio palazzo, se la passa la scatola e trova tutta l'acqua dentro, è normale che poi disturbavi, perché cazzo prendeva tutte le spuglie. E così ce l'avrà questa, sicuramente. Mi sarà partito il miscelatore e non riesce a vedere bene i canali. E uno va accusato, ma perché non lo sta scelto io apposta per poter cambiare. Sì, lui agli anni ha già fatto un po' di fusi. No, a me non mi ha avuto, che non so chi sito. C'è da mia moglie e ha pigliato a parolacce. Perché c'è un marito di buttarne l'antenna. E cava di nero che ci l'ha detto. Buttarne l'antenna. Ce ne butti lì da dove è. Non so, a fare dalle mare. Ha detto a girare le balle. E fa una cosa, mangia a dire le balle. Che non va il tempo. E c'è gentaglia quella zona, lo so. Ma dove abita? È parato dove abitava Coso, dove abita Mario Marce. No, si può dire nel negozio, l'hai mai visto qua vicino? In che cosa? Negozio alimentare. Dove c'è il negozio alimentare, lei abita per appena più giù al terzo piano. Sì, ma dipende da lì sicuramente. Se anche a 70 anni non è mai andato a farsi da nessuno. A meno che tu abbia attaccato il lineare adesso che stiano disturbando per quello, ma il lineare non attacchi. Non c'è nemmeno lineare, io mi scendo con il... però sta uscendo con il presidente con 10 bar. Basta. No, adesso ho attaccato questo 4 bar. speriamo che non mi venga a rompere le balle a me. Buongiorno. Sì, sì, buonasera. Ciao Gianni, ciao Tore, buonasera a tutti e due, vai. Ma basta fatto che ho sentito, adesso entra a salutare. Ciao Fra, come va? Ah, tutto bene già. E tu tutto a posto? Sì, grazie a Dio, sì. Qualche dolorino, ma adesso mi domani devo cominciare, mi hanno chiamato dal centro di riabilitazione, devo andare a fare un po' di ginnastica. Appaga, riportate che vado tutto bene. Tore! Hello bra, buonasera, carta! Quanto sei fatto bandito? Ero sempre fuori, capito. Non c'ho più tempo. Mi ho detto che c'è una cosa, adesso proprio queste radio stanno ancora funzionando, visto che sembra che stiano andando. Tore, spieghi che mi stai disturbando in televisione. Senti che stai disturbando il televisore. Si fa fare una brutta mia, lo sai. Ciao, vicino di casa. Cazzo, già ti puoi mettere con uno piccolino. Uno è più grosso di me, andare. Fra, hai compreso giocare, sì. Ciao Manuè, buonasera. Ciao Fra, ben sentito dopo tanto. Cazzo, lo vedo sul canale 3 o 4 ore. Ciò che non mi vedi tu a me, o ciò che non mi vedi. Ma mi stavo provando questa radio manuale, per se sta funzionando bene, tutto lì. E c'è un po' di tempo fermo. Una bomba, cazzo, voglia di... Va bene, va bene. Va bene, mi ascolti, sì. Sì, la voglia, con la bomboletta. Sempre quell'antenna c'è, miccia. Non si è capottata ancora. No, tranquillo, chissà, quella non si spezza più già. Sì, vabbè. Pazienza, fra. A me, quando me l'hanno piazzata, sicuramente non sono stati rispettate le misure, dai. Ma io l'ho piazzata, ho rispettato le misure, rinforzate, va benissimo. Addirittura non c'ha neanche stazionarie, nulla. No, non ne ha mai avuto quella stazionaria, uno e uno sempre. Non le hanno stazionari quelle antenne, l'unica cosa è che si vetrificano, a quanto mi hanno detto si vetrificano come fa la macchina, viene le maniglie e cose, si vetrifica così. E quando si rompe, si butta. Adesso il problema non è la latte, se l'ho controllata è perfetta. È meglio così, ma poi tu non sei esposto al vento, capito? Io non ti esposto perché non ti di fronte al mare. Tu il maestrale lo prende in pieno lì. Vabbè, si vede tutti i rumori, si vede addirittura le barche in casa da casa. Per quello, Però strano, se si è spezzata così quel pezzo lì. Non lo so, tutti quelli che ce l'hanno piazzata, ho sentito che funzionano bene queste antenne. Vai su internet e guarda il forum dove scrivono che non serve, che l'antenna che va bene sino a quando arriva le dritta, perché non vedo si spezza. Così hanno scritto, l'unitivo il forum. Vabbè, ma è interessante che te si vada bene, cosa vuol dire che tu l'hai piazzato in un modo che non si può spezzare, cosa gli ha messo? Rinforzi di tubo. Allora questa qua è rinforzata, sta quanta con il tubo, oltre è tutta rinforzata, capito? Ah ecco, ti ha messo un'anima. Esatto. Come abbiamo fatto col tubo dell'antenna. Vedere se è più mossa la mia, comunque la mia non balla così come quella lì, quando c'è un bel vento di maestrale si muove appena appena. Ma questa flette un bel. Adesso io sono andato a pescare, andate. No, adesso non ho fatto andarci già. Io ho quelle canne che mi fanno male a vederle, che se parcheggiate, già tutte armate, tutto l'altro, pronte per andare a piccare. Mi sono venuti in questi dolori, non potevo stare. Poi sono andato un paio di volte, una sera ho fatto dalle 8 fino a mezzanotte e mezza, alla 1 non ho giubilato nulla. Dove sei andato? Sono andato via al presidio militare e niente, provata americana, rinicola, nulla, neanche una toccata. Per non dire cazzata, una marmoletta, ma piccolissima. Ma allora lì stanno buttando in palame, si stanno buttando, per quello non si pesca più nulla. Le parti, quelle delle cabine, capito? E quindi non va a infatti dove? Infatti così, quelle delle cabine la notte ci sono, il sabato notte specialmente, la domenica mangiano le ritirano, ecco cosa è, e si fa tenere la magliata la domenica sera. Ma non è Platamona, né al Quinto, né al Sesto, né alle Dimbici, né Badigi, non stanno prendendo niente. Però io questi filmati che vedo su internet mi imporrano fra... Se si incassa se si orandi, se si spigono e lui, va bene per ove. E in Spagna? No, anche in Sardegna, non solo in Spagna, anche in Sardegna nella zona di Cagliari. Cazzo, l'ho preso un coso, come si chiama? Ma non mi vedo. Vabbè, comunque, un bel pesce, sarà stato un decino di chili. È stata da qualche ricciolo e nella zona di Corno, Capotesta, quella zona lì, oppure Calasciapone, Sant'Antioco, tutte quelle zone, è zona buona per pescare, a noi è battuto come qua, capito? Qua ci sono troppe reti. No, era una cernia. A Bicchinocchi, no, reti a Nastra, a Gogò, si buttano le reti sotto costa, gatta, a 200 metri. Ha messo un calamaro e ha preso una cernia enorme, cazzo, un calamaro ha messo. Beh, sì. A pescare lì qualcosa lì a Capocaccia puoi prendere a mare aperto, ma è un casino scenderci. Ma è protetta quella zona, non può pescare, ma si caccia a fare la risa. Neanche a mare di fuori, ma a mare aperto puoi pescare, ti rompono le scatole. Capocaccia è zona riservata, c'è una riserva di pesca, non si può pescare. Ma lui, non mi dici. Io la organizziamo fra qualche giorno. Ci scendiamo a vedere, a provare. Io guarda, avevo la voglia di andare anche a Seppi e così, senza comprare nulla. Vai con il fitto e va a pescare i Seppi. Adesso è il periodo, aprile è il periodo delle Seppi. Lo sai, quella zona tua là hanno chiuso tutto, non ti fanno più entrare. Io lo so, sì, se vai adesso lì è pieno di Seppi. Non ti fanno entrare, ti mandano via, c'è la guardia all'ingresso, non ti fa entrare neanche in macchina, neanche a piedi. Lo so, bisogna conoscere la guardia, se la conosci magari ti puoi entrare, come faccio qua quella Fiume Santo, che facevo entrare a questo qua, con la moto carrozzella, cazzo, andavo a pescare in quel vascone che c'è dove ci sono gli scambi dell'acqua, lo sai durante che pigliavo, grandi sciati ti regalava una. Lo so. Lì però non ti fanno più entrare, è un casino. E gli altri sono là, gli orati, ma io non ne vanno i sorati. Allora, al Molasi io non ho mai pescato al Molasi, perché lo so che sono pesci diesel. Ma io è pieno, ci sono quegli orati a 5 kg, 6 kg anche, addirittura. Ma io non ne mangio i sorbesci, cosa ne fai qua? Sono a mare, mangiano... Cazzo, ho visto quando è partita la rava, ha lasciato l'asciuma, ragazzi, a galla. Sarà stato per un quarto d'ora, 20 minuti è rimasta questa schiuma bianca, tutto quello che c'era sotto, tutto l'inquinamento, porca il da... Tutta quella che scarica la nave, tu pensa alla mondetta che scarica la nave. Ho visto un filmato su internet di questa nave scaricando roba, chissà cosa dutuia questa roba. Ma c'era un bocchettone enorme, cazzo, usciva la roba a fiuto. E lì a Platamona c'era una puttana l'altro giorno, non sono sceso. C'era la spiaggia tutta piena di arelle, cazzo, tutti i luxi. Quelle bianche sono, che sembrano alghe secche. Ma fanno una puzza allucinante. Quelle sono tipo le meduse, così. E dice che le usano a pescare quando sono vive, boh. Le sono molte umbe, secondo me c'è stato un inquinamento oppure mancanza d'ossigeno, boh. Secondo me tutto inquinato, già, per carità. Vai tu. Sicuramente inquinamento, oppure le alghe che ci sono putrefatte e hanno inquinato. Purtroppo siamo in mezzo alle delinquenti d'ora. Sì, forse erano le alghe, è un processo naturale. Ma a caso quando buttano roba dalle navi, dalle imbarcazioni, quello lì è che fa male. E perché a Platamona quante ce ne trovano di quei pezzi di plastica piccoli, non l'hai mai visto? Sì, alla giustizia, sì. No, viene con le petroliere che stanno al largo, chi se li carregheggiano i buri, alle navi di Gozo. si carreggiano. E allora, le barche normali non hanno di questa roba è tutta fatta da imbarcazioni grosse. Tutta la mondetta la scaricano lì, capito? Ed è un caso. Comunque ci proviamo ad andare a Sette qualche sera già. E c'è tutta la trattatura, c'è tutto, è già tutto pronto, la cassetta c'ha tutto quanto. Non faccio che attaccarlo al moschettone e andare. No, io già ne ho di totanare, ne ho un casino. Ma che se la volevo andare a provare? Adesso questa settimana no, perché sono incasinato. Mari, perché? Passato alla prossima settimana, se tutto va bene, ci organizziamo e scendiamo. Sì, e dove vuoi andare? Oh, a Stintino, beh, ci prendono. Anche perché le ossa di seppia mi servono per dare pappagalli, che se non facendo le uova. No. Le... Ma la prima volta si l'hanno mangiati, però non fate se l'hanno mangiate. Adesso vediamo se stanno di roba accoppiati. Se ce l'hanno mangiati vuol dire che erano morti. No, erano piene dentro, li ho viste io, c'era il tuono. Se li hanno mangiati sicuramente perché avevano mancanza di calcio. Adesso gli ho dato il guscio dell'uovo e l'osso di seppia da mangiare. Quanti ne hai? Tre? Capo. Dai, sono belli, voglio dire. Quelli sono belli, sono molto costosi da mantenere, però sono belli, sono più comodati che ci sono come pappagalli. Ma quelli parlo, questo che ho io è un bel biglietto, però non parla questo che ho io. Fischia, cioè gli fai un fischio e te lo fa uguale, ne fai un altro e te lo fa preciso. L'unica cosa che non parlano questi pappagalli, perché sono piccoli, capito? Uno mi c'è fuggito, uno c'è fuggito dalla finestra, non l'ho più trovato. Ma è inseparabile, se dice. Figlia? No, fuggito te. Anche a me mi era fuggito uno, però l'ho messo su Facebook. E ho scritto anche che chi l'ha trovato non può tenerlo, perché se non c'è documenti ti arrestano se ti trovano senza documenti. E mi hanno telefonato dopo 3 giorni. Ha trovato e si è calato sul terrazzo, gli ha messo il braccio, gli ha messo sul braccio e adesso l'ho visto che erano messi in casa. Ma va a ritrovare, no, questo qua non l'ho più trovato. C'è fuggito dalla finestra, ho aperto la gabbia, prima veniva, no, alla fine questo culo uno mi si è appoggiato sul braccio e invece l'altro si è fuggito dal balcone, vaffan. La femmina è fuggita. Ma che tu la sai il balcone al mito, quando lì io li libero, ma li chiudo tutte le finestre, da quando mi è scappato sono scottato. A me mi è scappato, non sai come. C'era la finestra della sala aperta e la porta aperta, ho aperto la porta in cucina, ci è uscito in fuori, dai, sono l'ha visto volando, l'ha visto chiuso, l'ha fatta su, c'è il decido pure. C'è un'altra, raga. Riprendi il cuore. Pappagalli, sono pappagalli. Purtroppo. Bisogna farle a brutto, E tu lo dati paradutti. Aspetta che mamma mia andiamo dopo. C'è propagazione. Ok, devo provare un altro apparecchio, il superstar vedo come esce. Che superstar c'hai? Il 3009. Come ce l'avevo io? È uguale al tuo, Adesso, anche questo è nuovo, E sarà quello che ho venduto io, sicuramente. Ah, buono, so. Adesso lo provo. A me mi piacerebbe l'S200, ma mi piace solo di noi, se lo provo, lo prendo e me lo ricoloro i contorni di nero. Guarda a vedere come va, 1, 2, 3. Sì, è normale, si sente che è buono, è normale la modulazione. Va bene come radio. È chiarissima. E questo è il superstar. Qui c'è anche il microfono di quello, nuovo. Adesso sto usando l'MB+4. Che ha pagato. Il microfono originale io c'ho, nuovo, tutto mai usato. Sì, ce l'ho anche io. Quello grande c'hai. Scappa. Adesso provo l'altra radio per vedere come mi ascolta. Quindi ne provo un aio di radio di questa società. Questa com'è? Giovanni? Aspetta, fra che sta cambiando apparato, sta cambiando. Guarda se ne buca di qualcuno a me. Com'è questa? Va bene? E già. stava 10-5, perfetta, buona come roba. Adesso lui ha detto che stava provando un altro, vediamo un po' come esce. Poi se ne vuoi fino a me del 3009. Perché ti serve un 3009? Sì, uno, ma cioè, dopo, non so se questo si decide a prendersi questo qua, il quadribanda. Perché va bene o te lo stai? Dopo me ne voto, l'ha detto Iaro Bregio e mi ha detto ci risentiamo, ma non lo so, così mi ha detto. Ci sarà sul saggio, e beh fra, questo come va? Ma già va bene, ti ascolto bene. Guarda, posso anche alzare, così va bene. Sì, una bombetta, Questo qua lo sai cos'è? Questo è il Cobra. È il Cobra. Quello è una bombetta. A me con questo bene, questo è il Magno, bene mi ascolti. A Puglia. Sto scendo con minima potenza, Qua, adesso lo metto. Hola. Ma tu qua arrivi sempre con lo scalafra. Ma lo sai l'S9, il Magnum, quanto lo stanno prendendo? 900 euro. E io ci ho 980, quello superiore che avevo pagato allora, l'avevo pagato 500 euro. Quando il Magnum costava sulle 4,30, una cosa del genere. Invece il 680 costava 500. Sì, no, va bene. Questo va bene, questo qui è il Cobra. Questo qua è un signor apparecchio. No, va bene, va bene. Ma anche questo funziona bene. Questo adesso ecco non ne ho messo, l'ho spento io. E anche io, se voglio metto anche, c'ho microfoni con l'eco, la giubbocca di cose. Solo che non lo so più trattenere perché non ti ispira più a cambiare, a fare perché c'è poca gente. Idea, adesso lo metto a minimo, va. Questa è la minima potenza. Aspetta, Adesso... lo provo comunque, guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, sì. E va bene, sì, già va bene, io ti ascolto sempre bene. Ma il camper è cambiato, dai. Che cosa già? Il camper, ho detto, l'hai comprato nuovo, c'è sempre lo stesso. No, sempre quello. Stavo dicendo, tu non mi ascolti adesso? Benissimo, Radio 5, buona. È buonissima. Segnale buono, Di più non ti posso dare. No, io c'ho 9, però di più non va questo qua. Vabbè, dai, ho diminuito la potenza. Lo sto facendo uscire con 5 watt modulati. Fra, ne ho visto uno preciso al vostro, no? Ne ho visto uno a 4 ore, mi sembrava che tu mi stavo avvicinando, invece è un altro tipo che ce l'aveva. E tu non si era venduto, bravo. Ah, io ho capito cosa stai dicendo. Quello ce l'aveva uguale al tipo, non era uguale. Ci assomigliava come tipo di camper, era un po' diverso però. E tagliato davanti, come il vostro. Ho capito. Infatti era quasi preciso al nostro. Che pagava. E mi sono sceso quando avanti a fare una passeggiata, c'era un sole che spaccava le pete, c'era tutta la gente di spiaggia. E adesso va tutta la settimana brutto, per carità, non si ricomprende più nulla di questo tempo. Adesso a Pasquetta dovrebbe cambiare, A Pasquetta diceva l'altro tempo brutto, Pasquetta sarà bagnata, bisogna vedere. E intanto lo devo andare adesso da parte, cosa mi dà tutti. A Pasqua sì, ma a Pasquetta sono a casa sicuramente, c'ho gente a pranzo ma sono a casa. Eglia. E quindi tu stai cercando un baracchino? No, se vendo quello lì mi compro uno di quelli, mi compro. Dico, mi ha chiamato al telefono e mi ha detto a vedere, ha sbattuto l'ombreggio e mi ha detto un po' caro ma già va bene come prezzo. Ti ha fatto vedere in internet che c'ho più di 600 che costano, quindi se l'andava è buono, no, me lo dico. E tu quanto lo dai? Questo 600 lo sto dando, nemmeno lo do. bello Vigia, un Icon quadribanda. Ma quello è piccolo o di quelli grandi? Insomma, non è piccolo piccolo, ma neanche grande grande. Però c'è anche il coso attaccato, l'alimentatore suo, che lo devi alimentare, però c'è il servo apparecchio. Ho capito. E se ci sono attaccato l'alimentatore non funzionava, te lo sono abbigliato. E c'era lo spigotturino dietro che l'ha staccato, l'ha attaccato male. Deve essere come l'ho tirato, si è staccato. E vabbè, interessante che non abbia nulla. Io l'alimentatore ne ho uno da 50 ampere di quelli cinesi. Le ho messo l'interruttore, vanno benissimo. Io ne ho uno qua modificato da 40 ampere. 1050 e 50, perché le avevo presi una persona per cambiare le ripetitori, invece se mi servivano me ne avevo comprato due. Io ho sempre quello Lambi, quell'Intec con gli strumenti, è nuovo nuovo. Quello che c'era tu io? K di positivo, sì. Ho sentito. Quello va bene. Anche quello della Ital, quello che tu hai detto che lo usavi per fare l'oro colorare. E poi c'ho l'altro, mi hai dato tu, quello, lo switch da 32 ampere. K. E allora me ne sono rimasti due di alimentatori, ma io ho tutti apparecchi, ce n'ho solo uno che va con l'alimentatore, gli altri sono tutti a 220. E poi c'ho l'altro a 15 ampere con gli strumenti anche. Ma se usi questo apparecchio che sto usando adesso, non gli bastano 15 ampere. Ma adesso che va giù sotto gli arrivati ad andare, non ti preoccupare. Questo assorbe, questo qui esce con 30 watt. Allora tu devi considerare questo che sto usando io, l'apparecchio da 50 watt in AM. Lo posso aumentare e diminuire da 1 a 50. E che apparecchio è? Questo è il Magnum. Ragazzi, Magnum. Che modello è? Questo è l'HP45. Ho capito qual è. Sì, quello che c'ha la rete. Questo dove c'ha? L'attraversamento dietro. Hai capito qual è? Sì, ho capito. Quello che è il dissipatore. Esatto, c'ha frequentimetro, canali, ecco, scheda, tutto. Posmetro, wattmetro, tutto c'ha. Già è bello anche quello. Ma questo qua lo stavano cercando, questo che c'ho io. Questo qui gli ha detto 600 euro. Mi ha detto no, 600 è troppo. Non so quanto costava, gli ha detto quando era uomo. Costava 800. 750, 800, se non mi ricordo. Ma no, era nuovo lo stesso. Come quello mio è nuovo, perché non c'è un graffio. Questo è fiammante, nuovo. Poi è bello perché puoi regolare la potenza che vuoi, capito? E tu adesso stai usando le VV+4? No, sto usando il suo microfono originale. Se questo qui va bene. Ma è amplificato dall'apparecchio, capito? Questo qua, questo microfono che sto usando io è bello a vivo, questo qui è nuovo. Questo è il suo microfono già, vabbè, devi conoscere questo apparecchio, è già preamplificato perché c'è un sistema diverso dagli altri. È come 980 via. Prova questo KPO, dammi bene la risposta, esce un bel forte. Non lo conosco già, io ho qua l'MV+4, poi vabbè l'MC60 e questo qua il microfono originale del Magno, basta. Il KPO è un microfono praticamente palmare che di nuova generazione, dai. Però siccome Marco Condo l'aveva comprato, mi piaceva come usciva, gliel'ho chiesto dove l'aveva preso e me l'ho preso anch'io. Va benissimo quello. Se va bene. Mi ricordo già abbassa, troppo forte, Anche questo Superstar comunque va benissimo, è nuovo questo qua. Cava. Non ne fanno più di apparecchi buoni, capito? Adesso fanno mondezze, buh. Oh, io sul passato l'ho dato perché ne avevo troppi, ma un po' mi è dispiaciuto perché era nuovo nuovo. Solo che ne avevo troppi, cazzo, sono arrivato a 25 gli apparecchi della stazione, erano uno sopra l'altro, poi alla fine non mi piace più guardarla, capito? Mi piace che siano virati uno per piano, con il suo alimentatore a fianco e via dicendo. Non mi piacciono uno sull'altro, non mi piace di più. Beh, sì. Ma io ne ho uno, due, tre, tre, quattro, cinque. C'ho il Sommercamp, 23 canali, poi c'ho l'altro Midland, c'ho la 48 modificato, dopo cosa c'ho? E poi c'ho un altro Midland ancora, 40 canali. Cosa me ne voto? Il Superstar. E ci fosse gente, poi come già va bene, gli apparecchi già ci sono, c'è poca gente. Avanti tu. Infatti c'è poca gente, siamo sempre dei soliti, girelli. E quindi bisogna stare così. Quando vai a fumare. E no, un vedere rimane a bardati. Vabbè, ma io in ogni caso non vendo niente, anche se non utilizzo le radio, rimangono qua, capito? Vabbè, no, guardate, da mangiare non te le chiedono. Ogni tanto si accendono, perché sennò si rovinano, bisogna accenderli ogni tanto. E c'ho il coso, il... sono tra parecchi tenuti, poi io li tengo bene la radio già, sono nuovi nuovi. Io lo stesso li tengo bene, sono chiusi nel mobile. Quando mi sembra per mobile è modulo, già lo sai come ti sono di me. Eh beh sì, già li ho visti, già li tieni bene. Come ti è arrivato a te là adesso? Il cosa c'è? Il Ruiz è quello lì e poi una trena, giusto? Allora, io c'ho il Ruiz, che sa, Turneco, questo qua che è Cobra e poi c'ho l'S980. Lo conosco quello lì. L'S9 ce l'ha presente, è uguale, solo che l'S9 aveva dei difetti che gli hanno praticamente tolto con il nuovo modello. L'S9 sparivano le cifre, le frequenzive, eccetera, invece questo non lo fa più. Ah, ho capito, sì, sì. Allora, gli effetti l'hanno migliorato, dai. Eglia, eglia. E infatti davano problemi quelli là. No, ma questo va bene, questo sta utilizzando adesso. Va benissimo. Gabba, gabba. Sì, ma anche un baracchietto da niente, se c'è gente, basta che tu abbia una buona antenna. Anche un baracchino da 5 watt, 4 watt, va benissimo. Ma infatti, cosa te ne frega? Poi per Sassari, ce n'è, ne avanza. Quello che comanda l'antenna, fra. Certo, l'antenna vuol dire è tutto. Puoi avere un apparecchio anche con 5 watt, l'importante è che c'è l'antenna. C'è l'antenna, l'antenna è il nome del... è il coso, capito? Progetto 1 è l'antenna, senza antenna è un casino. Davvero una bella radio, ma se non c'è antenna, è chi dà la canzone? Cava cava, vai to! Infatti, se non fai antenna, buona, noi ci metti i tiri, ma ti erano un bel... Ah, ma sto cambiando, cioè, in trend, però... Quando è molto di babba. Ma sto secondo. Oh yeah! Ma no, va drubito dici. Ho finito a mangiare, ho fatto un chilo di spaghetti adesso. A dieta sì. Sì, al dottore mi ha detto mangiare un po' alla volta. Sì, io già non ne mangio prima, ma non sbagliare. Ho mangiato poi 250 grammi di patatine fritte e una bistecca, dai. Ale, sono più tratti male, no? E poi senza contare ci vuole il cazzo bianchino, un mezzo litro ma lo bevo. Qualche volta quando mangio la pizza, ma non è che c'è una cosa abituale. Il cuore basta che è allenato. Vino. No, a me il vino non mi piace, a meno che sia un vino particolare, tipo quello di Sorso, che è buono, però le assaggio un po', non è che mi piace più di tanto. Ma lo sapevo, il vino di Sorso, la da Pichi, cazzo che è sorso. E perché cos'è il sorso? Cattivo è? Vai a svegliare, cosa che è sorso. Ti devo smentire, se sta scherzando è un conto, ma il vino di Sorso è nominato a tutta la Sardegna, a tutte le parti, Sorso, quello piccoso del Nuorese è nominato, e quello di Sorso è un bel forte del vino. Allora, vino del Nuorese va sul discorso, allora ci tanto di cappello, vino dell'Ogliassa è buono, vino di Irsu è buono, ma non mi devi mettere quello di Sorso, perché fa proprio cagare. E dipende dai visi che ti dà, se ne dai di Giusso, ecco lo già detto. Quello è il fatto, bisogna saperlo, andarlo a prendere. Non ne sanno fare, Otto, non ne sanno fare proprio, non ne sanno proprio fare il vino lì. Faccio un amico che abita prima di Castelsardo, c'è il vigneto, c'è un vaziedo, c'è che è andato la salita a Ciappallo, mi ha regalato un buccione, me l'ha regalato, oi oi oi, mette da zia a capo. Evidentemente c'ha messo anche medicina. No, medicina lui non ne mette, no, cazzo la fa buono, ed è buono. Ma me ne ha dato uno rosso e uno bianco, il bianco era buonissimo. No, medicina nel senso che la pastiglia per darle un po' di gradi. Ma lo sai, c'è una posta a Capuano, mi hanno fatto un vino, mi sono dormito. Giura Zappa, si preoccupa. E faccio mai non ne rimani. Una volta a Capuano ho bevuto un bicchiere di vino, mi sono dormito. Cazzo, sono forte, le fanno forte. A me con le risorse mi piace fare. Io se lo prendevo, lo prendevo dalla parte di Santa Teresa, di Gallura, che lo fanno buono, che c'è anche una cantina lì che riassaggia e tutto quanto. Fanno sia il bianco, sia moscato, vermentino, di tutti i tipi li fanno. E a Usine, Marco? A Usine è buono, vedi? Lo fanno buono a Usine. Era di Usine cosa che mi ha dormito. Ah, non era quello di Sorso allora? No, no, di Usine era. Era di uno di Usine che conosceva un amico mio e gli aveva comprato un bidone. Ma che vino di Sorso proprio non è esame proprio qua, ma proprio 0-0. Non è così. Se conosci il produttore, come ce l'avevo io, un amico che me lo dava, che se l'avevo a vino. Ma figurati che era vino che faceva lui oppure lo prendeva da un'altra parte. No, no, lo facevano loro. C'ha 7 ettari di vigneto. Sano. Fai entrare ciucucciù a tu, o a tu. Avanti, ciucucciucu. Ciucucciu. Niente, la natura, ciucucciù, ciucucciù, fai la cosa, buon pugno. No, già si intende che hanno entrato, non ti preoccupare. È sempre dito che fa di ciucucciucu, c'è un vaglisso. E hai? Uno dei vicino, non so che si fa di avanti dolce, o in vicinanza. C'è preghisso, Vabbè, ma io vi lascio, vi saluto tutti cordialmente, adesso scendendo giù, perché questo mi sta rompendo, mi sta chiamando, mi è venuto, come ha sentito che mi sto salutando, è venuto subito a guardare. E vabbè, dai, io chiudo, ciao Gianni, ciao Emanuele, ciao anche attore, eventuali SWL che sono in ascolto. Vi saluto tutti, per me me ne vado IQRT. Ciao a tutti. Ciao Franco, anche io vado, vi saluto tutti cordialmente. Ciao ciao a tutti. Ciao Franco, ciao Gianni, ciao Tore, chiudo anche io che mi guardo un po' di televisione, dai, ciao a tutti. Ok, dai, vi saluto anche io. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Franco, stammi bene, alla prossima. Ciao Gianni. E buona passeggiata con il cane, ok, ciao. Ciao Emanuele. Ciao a tutti. Emanuele. Chilometro, 2, 0, 6. Hola, CQ canale 10, CQ 10. CQ 10? Chiamate. Ciao Robè. Sei bello. Comunque ho fatto la prova e entra sempre acqua. Certo, non è finito il lavoro, Luca, è normale, no? Ah, ok, pensavo che da cazzo ne entra di brutto. Ehi, allora. Magari. Non lo so, volevo dire tu. Anche giovedì. Di sera, non lo so, boh. Io che aspettavo il giorno dopo, Luca, ti ho detto adesso abbiamo incollato la plastica e poi ci mettiamo tutto il coso in giro, col massice che dico io. Se domani, vabbè, settimana piove, se giovedì, perché c'era mercoledì, è sicuro che piove, pure parecchio. Ma rimettici un pezzo di nastro nella parte alta, così un pezzo di scotch anche nastro isolante, in modo che non ti allaghi la macchina. Poi passi, se giovedì non piove, passa dopo pranzo, come hai fatto l'altra volta, dopo le 2:30 e ci mettiamo col massice. Vabbè, mi entra acqua quando la lavo, non quando piove. Non deve entrare in nessun caso, anche quando la lavi non deve entrare. Io, vabbè. Ho cercato anche di là, ma non c'è nessuno mai. E dove? Dove parlate voi? Ho chiamato adesso, io stavo facendo diplomi dell'Award, ne ho fatto un pochettino, una diecina, 7-8, c'è una confusione totale, l'uno sopra l'altro, una cosa, infatti per entrare poi è stato anche un problema. Ho chiamato a 525, non c'era nessuno, ho detto vabbè, aspetta che proviamo anche qua, prima di andare a cenare ho detto vediamo se c'è qualcuno. Oh, è mai già tardi. Ho sentito l'altro giorno chi c'era, Marco e Antonello Pompugno, e boh, poi è entrato un secondino, non mi ricordo più, però chi non sento per niente sono quelli di Alghero, che dice loro entrano sul canale 15, boh, mai sentiti. Boh, non ci giro mai al 15, sempre che sto qua, sempre andavo al 23. Vabbè, mi sento che non ci vado mai. Qualche volta sono andato sul 12, c'era qualche volta ho trovato Attino, Franco e come si chiama? E Gavino. Ah sì, a canale 12. Sul canale 12 mi è capitato di sentirli. Sul 10, qualche volta, forse c'eri tu, l'altra volta c'era Marco, chi c'era poi? Antonio, poi non mi ricordo chi. Ma anche qua poca gente. Ah, ma è fatta, adesso è il caldo ancora peggio. Quello già è vero, adesso sono in casa, ho detto dai, lascia vedere se c'è qualcuno, sempre mi piacere ascoltare qualcuno. Comunque non ti dimenticare il passaggio, mentre stavo aspettando, ho detto buh, solo che non sia venuto Luca. L'attacco, come si chiama l'altro, la... Il Super Sag è parcheggiato. Ti ho parlato sopra, ho detto non ti dimenticare, lo giovedì passa, se non piove, ti aspettavo, ho detto, boh, forse stava facendo qualcosa Luca. Boh, come mi sono dimenticato, no, vabbè. Se mi esce un lavoro, vale, me lo faccio, vabbè, come mi è già successo. Assolutamente, è quello prima di tutti. Che radio è questa? È un segnalone, se 9:35 quasi Luca. Questo è l'Arito, Arito CC Plus. È una bestia, è un segnale della paura. Ma non ci siamo andando a scala. Ci sono gli americani a bomba, ieri erano in banda laterale sul canale, il canale 12 se non mi ricordo, ma arrivavano sparati, una bomba. Non ci vedi accendito. Vabbè, già siamo abbastanza vicini, dai. Io ho sempre con te avuto sempre bei segnali e tu viceversa. All'inizio no, all'inizio della carriera. Non so se ti ricordi, sei stato tu a battezzarmi con il portatilino che tira 2 watt con la radio, non lo so neanche, con l'antenino in gomma. Dentro casa l'unico che mi aveva sentito sei stato tu. Poi dopo qualche giorno mi è venuta la paranoia, mi ho messo una mini Grand Plain e di lì ho migliorato tantissimo e poi piano piano ho messo la Mantova e qualche radio un po' più evoluta, e già mi facevo ascoltare. No, da qua sopra già domino abbastanza. Cavolo, sono domini da lì. Anche VHF mi ha tolto belle soddisfazioni. Poi ci sono gli spagnoli, io li ascolto tutto l'anno. C'è gente che proprio non li ascolta. Ci sono quelli di Alghero dentro casa col portatilino, col gomino. E io e solo forse Fabrizio riesce a ascoltare, gli altri nessuno. Dopo sei in alto, capito? Alghero lo ascolto, se uno ha una bella stazione. Quindi, guarda lì. Se uno ha una bella stazione, ha una buona antenna, già arriva. Non lo so, anche tu già sei messo bene, non hai grossi problemi. Io Mario qualche problema ce l'ho preso in Santa Teresa, a Castelsardo, di lì in Bui, diciamo c'è gente che lavora meglio di me, però la zona di Alghero, io vedo il faro di Capocaccia la notte, e da me sono 30 km, vedo proprio il fascio di luce che illumina il mare quando c'è visibilità, per cui Alghero non ve ne va nessuno, Claudio solo mi poteva superare, ma da qua non credo che ci sia più nessuno a Sassari. C'era Carlo, lo stesso, anche lui andava forte ad Alghero, ma non era paragonabile a me, perché io ho proprio l'apertura, io vedo chiaro chiaro, però se poi parliamo da altre parti magari sono un po' sacrificato. Vabbè, riprendi Luca. Eh sì. Vabbè, là. La posizione c'è. Mi sa, vabbè, adesso io ti saluto perché ho mangiato, vado a farmi una bella doccia. Niente, porto il cane, poi mi zingocco perché domani la sveglia suona alle 3:20 e tu la tacci, però se vuoi lavorare è così, devi alzarti dal letto e andare. Adesso tu lo sai più di me, perché io grazie a Dio c'ho un lavoro, diciamo, ereditato, perché sennò anche io mi dovevo dare una mossa, però fino a prendere quello che c'è, fare friggere la cinga, però meglio di stare buttati quelli che non stanno senza fare niente, magari qualcuno che fa anche cose che non deve fare, allora manco tu, un ragazzo serio che vuole lavorare, Ok Luca, ti saluto, buon pranzo, buona cena e buon tutto, vedi se c'è tempo, se non piove, dopo l'apertura, dopo le 2:30 vieni e ci fermiamo con la roba. Andava, tutto ricambiato roba. Se di nuovo la giovedì, dai, facciamo un salto così lo sistemiamo. Poi se dovrò cambiare la lampadina col taglierino lo apro. Se no lo straccio, cioè lo levo tutto, vado a marcia e me lo faccio dare a un altro. Perché io sicuramente smontando l'ho rotto le molle. Vabbè, ma tanto sono tutte cose, ne ho fatte decine, non ti preoccupare, è una cagata di sistema. Ci sono gli altri che hanno i dadini all'interno, li hanno messo in plastica, stringe bene e non c'è bisogno di romperla, è una cagata mondiale, infatti le hanno modificate, le altre macchine sono modificate. Vabbè Luca, ti lascio andare, buon tutto, ciao. Yeah, ciao Robè. Buongiorno, anzi buonasera. Buonasera anche a voi, non c'è problema, un controllo più che altro. E cosa ti controllo? C'è a fondo scala, cosa controllo? C'è l'effetto eco, che a me non mi piace, per il resto già stai andando più che bene. D'accordo, ok. No, l'ho appena preso l'apparecchio più che altro, quindi non sapevo che c'era l'effetto eco, quindi è lo 2007 più che altro. No, va a togliere l'eco, così ti dico come va la modulazione, perché te la sporca un pochettino con l'eco. Non lo so come funziona questa storia qua di togliere l'eco, quindi a un certo punto lascialo così come a fottutini, poi domani vedo un pochettino come fare là. Ok, ti saluto, anche Luca ha chiuso adesso, ci sentiamo, ciao Antonio. Ciao, a un certo punto. Saluto Tony Luca. Vabbè, come andiamo? Caspita, entro io, quando c'è il bip, sparite tutti, cazzo, a un certo punto. Manco un coso, che posso dire? Cioè, a un certo punto quando sei... Vabbè, comunque sia... se uno c'ha un problema, vabbè, d'accordo, ok, lasciamo così. Ora 2 3 4 5 6, prova. Ora 2 3 4 5 6, ora. Chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu ch si prova. Ora. Ora. Ora, 4, 5, 6, prova. Ora.